La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 30 ottobre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E dopo una settimana in cui ci siamo occupati di comunicazione open access, in questa puntata ci occuperemo appunto di un altro articolo open access uscito qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science. Questo articolo, questo paper uscito qualche giorno fa, ha tre autori: Chiara Eroldi, Sara Bergonzi e Brendan Davis. E noi questa settimana saremo in compagnia col primo autore di questo paper. Si chiama Chiara Eroldi, è una biologa, ricercatrice presso l'Università di Leeds, e cercheremo di parlare con lei di come sia cambiata l'identità sessuale nel corso del tempo di due piante, l'Antirrhinum e l'Arabidopsis. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Chiara, se in 100 parole dovessi riassumere il contenuto di questa ricerca, tu come lo faresti? Allora, durante questa ricerca abbiamo cercato di capire come sono cambiati durante il corso dell'evoluzione dei geni presenti in due diverse specie che noi studiamo da diverso tempo. Una è la bocca di leone, Antirrhinum, e l'altra è Arabidopsis. E praticamente circa 120 milioni di anni fa c'è stata una duplicazione. Da un gene progenitore comune si sono originati due geni che sono stati conservati sia nell'Arabidopsis che in Antirrhinum. In Arabidopsis uno di questi due geni è responsabile per la determinazione dello sviluppo degli organi sessuali maschili, gli stami, e dei carpelli, gli organi sessuali femminili, mentre il corrispettivo in Antirrhinum si è specializzato e è coinvolto nello sviluppo degli organi maschili, gli stami. Chiara, ti interrompo un attimo, a questo punto ci andiamo ad ascoltare prima un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Quando torniamo in studio cercheremo di dare un glossario degli argomenti, delle parole che tratteremo all'interno di questa trasmissione, mentre nella seconda parte della trasmissione parleremo espressamente del contenuto invece della ricerca appunto apparsa qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Madonna di studio, cari radioascoltatori, qui a Cacciofotone. Un benvenuto sia a coloro che stanno ascoltando la trasmissione in radio www.radiocittafugico.it e un benvenuto a coloro che stanno ascoltando la trasmissione tramite il podcast www.cacciafotone.it. Ecco, in questa trasmissione ci stiamo occupando di una ricerca uscita qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science e ne stiamo parlando col suo primo autore, Chiara Airoldi. Ecco Chiara, giusto per cominciare un attimo la trasmissione, vorrei che tu specificassi qual è la differenza fra piante e animali. Ecco, sia piante che animali sono definiti come organismi viventi, però sono fondamentalmente diversi. In che cosa? Lo sviluppo sessuale all'interno delle piante, dello sviluppo degli organi sessuali, viene determinato dall'espressione di particolari geni, come si dice nello studio, questi geni sono chiamati geni di classe C e sono dei fattori trascrizionali, dei geni che praticamente attivano la trascrizione di altri geni. E durante lo sviluppo di una pianta abbiamo una fase vegetativa in cui vengono sviluppate le foglie e una fase riproduttiva in cui si sviluppano i fiori e quindi gli organi riproduttori. E mentre quello che succede negli animali è che durante lo sviluppo embrionale, quindi nei primi stadi di sviluppo, avviene lo sviluppo degli organi sessuali, che viene controllato da fattori di tipo diverso, comunque altri fattori trascrizionali, ma uno sviluppo che avviene durante la fase embrionale, mentre nelle piante avviene in una fase più diciamo avanzata durante lo sviluppo. Senti Chiara, prima quando ti stavi riferendo ai fattori trascrizionali ti stavi sicuramente riferendo ai Madbox. Ecco, visto che li andremo a recuperare dopo nel proseguo della trasmissione, effettivamente che cosa sono i Madbox? I Madbox sono dei fattori trascrizionali, praticamente sono dei geni che codificano per dei fattori trascrizionali e sono delle proteine che si legano al DNA fisicamente e formano dei complessi con delle altre proteine che possono essere altri Madbox o proteine di altro tipo e regolano la trascrizione, quindi l'attivazione di altri geni. Perché dovete sapere che un gene può essere, diciamo, possiamo dire fra virgolette, spento, cioè può non essere trascritto e la proteina che viene codificata da quel gene può non esistere all'interno di un determinato tessuto, di un determinato, in un determinato momento. Mentre in alcuni casi questi geni vengono, fra virgolette, accesi da questi fattori trascrizionali e iniziano attraverso la trascrizione e poi la traduzione a codificare per delle proteine e quindi iniziano a riuscire ad esplicare la loro funzione. Chiara, anche questa domanda che ti sto per fare è per spiegare meglio le cose che andremo a dire dopo nella seconda parte della trasmissione. Ecco, se una trascrizione viene fatta in una o più piante, questa trascrizione verrà fatta in tutte le piante e se non viene fatta in tutte le piante, perché in alcune piante viene fatta e perché in altre piante invece non viene fatta? Si è visto che molti aspetti dello sviluppo del fiore sono conservati in diverse piante, però ogni pianta va studiata singolarmente. Si è visto che molti aspetti sono conservati, per esempio questi geni che noi studiamo nello studio, geni di classe C, sono stati studiati in diverse piante proprio per la loro importanza all'interno dello sviluppo degli organi sessuali della pianta e si è visto che sono presenti in diverse specie e quindi appaiono abbastanza conservati nel modo in cui vengono espressi e nel modo in cui agiscono. Però naturalmente ogni pianta deve essere studiata singolarmente. Sono giusto in tempo, Chiara, per farti l'ultima domanda di questa prima parte della trasmissione, che è un po' la domanda delle 100 pistole, giusto per mettere un pochino di carne al fuoco. Ecco, se dovessi definire una particolare peculiarità fra tutte quelle che avete scoperto all'interno di questo lavoro, quale individueresti come principale? Diciamo la peculiarità della ricerca che abbiamo effettuato, dei nostri risultati, sta nel fatto che un cambiamento così piccolo, cioè un singolo aminoacido introdotto, dobbiamo pensare che queste proteine sono fatte da circa 200 aminoacidi, 250, un cambiamento così piccolo può creare un effetto così grande, perché appunto sta in una posizione importante per l'interazione con le altre proteine. E poi noi siamo stati anche fortunati perché molti studi sono stati fatti sullo sviluppo del fiore e quindi sappiamo bene quali siano i geni che devono essere attivi e quali che non devono essere attivi. E quindi siamo partiti comunque con un background abbastanza formato e siamo riusciti a capire esattamente questo piccolo cambiamento come potesse dare un così grande cambiamento a livello dello sviluppo degli organi sessuali della pianta. Chiara, a questo punto di carne a fuoco ce n'è veramente tanta, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione parleremo espressamente del contenuto della vostra ricerca apparsa qualche giorno fa appunto sui Proceedings in modalità open access. Ragazzi, se la realtà fosse così... If my lips were a seal, I tried to talk, but my mouth just wouldn't move. Thousands of things to say, but to my growing dismay, I couldn't find a single line I could approve. In an honest way, movies and more, and I will find a thousand lines you'd like to hear. Answers I need to know. Do you think life's just a show? And if I play you Johnny Cash, will you draw near? I'm afraid I will never reach you as long as I can speak out. Words are waiting for you until I shout out loud. In an honest way. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Caccia Fotone. In questa puntata, per coloro che si fossero messi in ascolto solo ora, stiamo parlando di un paper uscito qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science e in particolare di questo paper ne stiamo parlando con la dottoressa Chiara Airoldi, ricercatrice postdoc biologa presso l'Università di Leeds in Inghilterra. Ecco, in questo articolo si spiega come un singolo aminoacido sia in grado di cambiare l'identità degli organi sessuali di due piante in particolare, l'antirrhinum e l'arabidopsis. Ecco, prima di entrare effettivamente nei dettagli di questa ricerca, quanti anni ci sono voluti per realizzarla? Sono voluti circa 3 anni. Siamo stati abbastanza fortunati perché la ricerca è andata comunque bene e in alcuni casi per effettuare ricerche di questo tipo ci vogliono anche più di 3 anni. La biologia dello sviluppo comunque richiede abbastanza tempo perché bisogna aspettare appunto che la pianta cresca e ci faccia vedere cosa succede nel suo fiore quando noi modifichiamo in un determinato modo i geni che sono all'interno della pianta. Chiara, perché proprio l'antirrhinum e l'arabidopsis e non altre piante, per esempio? E abbiamo analizzato quelle due piante perché sono state ampiamente studiate per quanto riguarda lo sviluppo del fiore. E Arabidopsis è stata ampiamente studiata, diciamo, in tutto il mondo in questi anni, e viene studiata per tutto quello che riguarda le piante, perché è una pianta molto semplice da tenere a livello anche di laboratorio rispetto ad altre piante. E mentre Antirrhinum è stato storicamente una delle prime piante in cui si è studiato lo sviluppo del fiore, grazie alla presenza di mutanti che avevano appunto delle alterazioni all'interno del fiore, per cui si sono individuati i geni, e quindi è stato un po', diciamo, una delle ricerche pioniere in questo campo è stata fatta all'interno di Antirrhinum. E nel nostro laboratorio da tempo si studiano queste due piante, e si sapeva che ci sono delle differenze in queste due piante fra come vengono determinati è determinato lo sviluppo degli organi sessuali. E quello che era stato evidenziato in un precedente studio era che circa 120 milioni di anni fa questa duplicazione aveva dato origine. E cosa succede? Quando abbiamo una duplicazione, i due geni, avendo esattamente la stessa funzione, se viene introdotta una mutazione in uno dei due geni, questa mutazione meno facilmente creerà un svantaggio che può essere letale per la pianta, oppure semplicemente uno svantaggio che la rende meno adatta a vivere in un determinato ambiente. Quindi per questo aspetto la duplicazione di un gene crea un'elevata variabilità, perché può far sì che una delle due copie acquisisca una nuova funzione, oppure, come nel caso del nostro gene Farinelli, che si specializzi all'interno dello sviluppo solo di una parte della funzione originaria del progenitore comune. Chiara, lo so che potrebbe sembrare una domanda stupida, però non è detto che chi ci ascolta sappia esattamente qual è la differenza. Quindi, qual è la differenza fra una proteina, un amminoacido, un gene? Chi c'è prima, chi c'è dopo? Quali sono i passaggi attraverso i quali la proteina diventa proteina? Il gene è quello che noi abbiamo sul DNA. Il gene è come se fosse il progetto su carta, mentre la proteina è il prodotto finale. Cioè, se noi abbiamo un progetto, per esempio di una macchina, su carta abbiamo tutti i dati che ci servono per fare il prodotto finale, che è la macchina. Quindi possiamo dire che la proteina sia la macchina, il prodotto finale, che viene prodotto attraverso pure tutto questo processo, che è inizialmente la trascrizione dei geni nel RNA messaggero e poi la traduzione dell'RNA messaggero in proteina. Benissimo, Chiara. Senti, a questo punto, nel vostro paper, voi analizzate la funzione di un amminoacido, il Q173. Ecco, perché analizzate la funzione di questo amminoacido e non altri? Il Q173 è una glutamina. E quello che abbiamo fatto inizialmente è di vedere le differenze tra questi due geni. Ma ci sono diverse differenze, per cui siamo andati a tentativi e abbiamo iniziato a produrre delle proteine chimeriche, e le abbiamo messe in Arabidopsis e abbiamo visto come si comportavano, se erano più simili alla proteina di Antirrhinum o più simili a quella di Arabidopsis, nel loro, in come il fiore appariva a un'analisi accurata. Quindi abbiamo ristretto pian pianino il campo e abbiamo capito che c'era una differenza in questo dominio, in questa elica, alfa elica, che è una struttura della proteina particolare, che era già stata vista essere importante per l'interazione, quindi fisicamente, il fatto che questa proteina potesse legarsi a altre proteine. E quindi, dopo aver ristretto questo piccolo dominio, abbiamo iniziato a fare delle mutazioni chiamate puntiformi, cioè a cambiare un amminoacido alla volta e vedere cosa succedeva, finché abbiamo cambiato questa glutammina, la Q173, e abbiamo visto che proprio quella dava la differenza. Quindi, diciamo, la proteina di antirrinum senza la glutammina appariva esattamente uguale alla proteina di arabidopsis, e viceversa, la proteina di arabidopsis aggiungendo questa glutammina appariva perfettamente uguale alla proteina di antirrinum. Ecco, l'altra cosa che mi sono domandato, è spulciando la vostra ricerca, è che voi dite che questa cosa è successa 120 milioni di anni fa. Ecco, come avete fatto a dire attraverso questo studio che questa mutazione è avvenuta 120 milioni di anni fa e non prima e non dopo? Per determinare questo tipo di datazione si guardano nelle diverse specie la presenza appunto di questi geni, e si è visto che in alcune sono presenti questi geni duplicati, mentre in altri sono assenti. Noi sappiamo quanto le due specie si sono, diciamo, divise all'interno dell'evoluzione, e quindi sappiamo esattamente quando queste duplicazioni sono state introdotte. Ora, di domande da fare veramente ce ne sarebbero tantissime, ma il Q173, questa glutammina, fa la stessa cosa nell'antirrinum e nell'arabidopsis, oppure si comporta in un modo nell'antirrinum e si comporta in un modo nell'arabidopsis? No, il Q173 è molto importante perché fa sì che nella proteina di antirrinum la funzione sia ristretta solo degli stami, gli organi sessuali maschili, mentre nell'arabidopsis l'assenza della glutammina fa sì che Agamus, la proteina di arabidopsis, riesca a determinare sia lo sviluppo degli organi femminili che lo sviluppo degli organi maschili. Quindi quello che è accaduto è che in antirrinum i due geni, dopo essersi duplicati, si sono specializzati, mentre in arabidopsis quello che è successo è che Agamus, uno dei due geni duplicati, è continuato ad essere importante sia per lo sviluppo degli organi sessuali maschili e femminili, mentre l'altra coppia si è specializzata più all'interno dello sviluppo del frutto, e infatti è stato visto che è importante per la deiscenza, cioè l'apertura del frutto in arabidopsis. Quindi, detto in parole semplici, tutto questo è avvenuto per un semplice errore di copiatura? Sì, e sono proprio gli errori, diciamo le mutazioni, che sono questi errori, tra virgolette, di copiatura, che introducono la variabilità che è necessaria per il processo evolutivo. E quando due geni si duplicano, difficilmente sarà letale, perché quando i geni si duplicano ce ne sono due, quindi uno potrà sempre avere la funzione originaria e quindi supplire all'altro che potrebbe cambiare. Se l'altro poi, come nel caso di Farinelli, si specializza all'interno di un determinato processo, l'altro gene potrà diciamo avere un ruolo minore all'interno di quel processo, e tutto questo è una cosa che avviene nel corso di milioni e milioni di anni attraverso questi piccoli errori di copiatura, che poi vengono diciamo selezionati favorevolmente se danno un vantaggio alla pianta, a livello appunto di come la pianta può sopravvivere in diversi ambienti e quindi appunto come può resistere alla selezione naturale, perché l'evoluzione è sempre in atto, diciamo. E visto che il modo in cui Farinelli, questo nuovo modo che ha di interagire con le altre proteine coinvolte in questo processo, fa sì che non solo diciamo Farinelli sia importante, ma siano anche importanti una proteina che è presente in diverse parti del fiore, e diciamo a seconda di come queste due si evolveranno in futuro e riusciranno a cambiare, potrà cambiare nettamente diciamo lo sviluppo della pianta. Siamo praticamente a un punto in cui abbiamo visto questo cambiamento nella proteina, e a seconda di come poi si evolverà sia questa proteina che le proteine con cui interagiscono, si darà origine a dei cambiamenti in come la pianta si sviluppa. Quindi Chiara, facendo come si faceva un tempo, quindi passando dal particolare al generale, tu in questo modo ci hai spiegato un pochino come avviene l'evoluzione attraverso le mutazioni. La mutazione è vincente quando trova l'humus per svilupparsi, per vincere la gara evolutiva. La mutazione è perdente e non si sviluppa più e non fa parte dell'evoluzione dell'organismo che è mutato se non trova l'humus per svilupparsi e per continuare ad esistere. Sì, esattamente. Mentre ci sono diversi tipi di errore, e quello che succede è che alcuni di questi creano un vantaggio. E quindi l'organismo che contiene il determinato errore che crea un vantaggio si riproducerà di più e fisserà questo errore che crea questo vantaggio. Quindi la selezione naturale fa sì che questo carattere che rappresenta un vantaggio continui all'interno delle diverse generazioni. Chiara, ultima domanda prima di lasciarci. Ecco, è indubbio che attraverso questa ricerca in qualche modo avete aperto nuove strade, nuovi percorsi per andare a studiare dei caratteri importanti delle piante. Ecco, proverete a percorrere tutte le strade che avete aperto oppure vi focalizzerete su alcune in particolare? Possiamo sviluppare sempre questo filone di ricerca, e poi avendolo pubblicato e appunto avendo messo in open access, speriamo che sia utile anche altri ricercatori che possono applicare, vedendo appunto cosa è successo in queste due specie, Arabidopsis e Anthyrhinum, possono avere diciamo uno spunto per controllare se lo stesso tipo di processo possa essere avvenuto in altre specie, perché tante volte certi meccanismi vengono conservati all'interno di diverse specie, e quindi appunto quello che speriamo è che possa essere d'aiuto per ricerche future, e noi andremo avanti appunto con la ricerca sullo sviluppo del fiore nelle piante, perché è la nostra area di ricerca, ma potrebbe anche essere utile anche allo studio dell'evoluzione all'interno di altri organismi. E con questa risposta della dottoressa Chiara Eroldi si conclude questa trasmissione di Cacciafotone. Ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato la trasmissione tramite internet dal sito www.cacciafotone.it e tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione in radio tramite la nostra radio, che è www.radiocittafugico.it. L'appuntamento è come al solito a sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e l'augurio è sempre quello: buona scienza a tutti. Ciao! Grande Giove.